canzone pace per me. Ora sei tu come un fiore che impazzisce senza amore. Dimmelo tu, cos'è vita, dimmelo tu.